quanti, buonasera, buonasera. Sono Yolanda. Ciao bimbi, come state? Bene, buonasera, scusi. Io sono Perotti, Veno Yolanda. Vivo in questa casa da 56, ho un po' di anni. Questa casa qui, anche se sono venuta ad abitare dopo che sono nata, la sento proprio mia. Perché è proprio, sento nei muri una qualche cosa che mi aiuta a vivere, ecco, anche se ho 80 anni, ma insomma a un certo momento cerco di metterci tutto il possibile per mantenerla e per riuscire a portarla avanti. Ma allora, quando è che è stata costruita la casa? Allora, praticamente l'origine della casa è del 1700, poi la costruzione laterale sono state fatte nel 1800. C'è una parte lunga e stretta in mezzo e quella era una serra nel 1700. La struttura dei muri sono molto grossi e qui se tu guardi l'altezza vedi che c'è un'altezza molto alta, anche perché potevano rimanere alcune piante. Le piante dei limoni salgono e si allargano, anche non ci sarebbero stati se era più bassa. Poi ai lati è stata costruita due ale, da una parte e dall'altra, per rendere la casa più grande. Allora, l'esperienza che io posso dire è da quando è nato mio nonno. E mio nonno l'ha comprata prima della prima guerra mondiale. Perciò è un po' vecchiotta la faccenda. Allora, all'inizio era una casa, non era costruita così, era una casa solo in mezzo, e in mezzo c'era una serra di limoni che veniva adoperata dalla persona che veniva, che era una persona un po' che aveva, facoltosa, che faceva, veniva a passare solo l'estate. Allora, l'entrata non era questa da dove siete entrati voi, ma era da in fondo la campagna. Entravano con le carrozze, venivano fino qui e poi qui avrebbero fatto i loro divertimenti, non lo so. Ecco, dopo, a un certo momento, nel 1800, la casa è stata costruita con le due ali laterali ed è stata abitata. Durante l'ultima guerra, mio nonno, prima dell'ultima guerra, l'ha comperata. Però era un po' da mettere a posto. La faccenda è stata che durante la guerra prima molte persone che abitavano qui hanno dovuto lasciare il Trentino e andare nei campi, non di concentramento, nei campi di raccolta. Ed era andato a Katzenau, era farmacista, ma lavorava come farmacista anche a Katzenau. Allora, però la casa era già comprata da lui. Qui, durante la guerra della Prima Guerra Mondiale, hanno fatto purtroppo un ritrovo di infermeria, cioè era un'infermeria, dove arrivavano tutti i soldati che avevano avuto delle ferite molto forti, venivano qui, venivano curati e poi le avranno mandati da qualche altro ospedale molto più impegnativo. Quando sono tornati dalla guerra, prima guerra, mio nonno e la mia nonna e mia mamma era ancora piccola, hanno trovato che tutta la scala, fino in cima, c'erano delle pantofole, delle specie di scarpe strane, fatte di paglia, di giunchi, e hanno bruciato tutte queste scarpe per non so quanto tempo. E così la casa poi è stata ripresa a posto, sono venuti ad abitare, mia mamma si sposa, io non sono nata qui, sono nata in città. Il fatto sta che arriva la seconda guerra. Anche nella seconda guerra hanno fatto l'ospedale qui. Però allora noi non eravamo sfollati e non eravamo qui. E c'erano, l'avevano requisita e sopra il tetto avevano fatto la croce bianca per segnalare l'ospedale. Hanno detto che c'era una fila di camion che dovevano andare verso la Germania. Si sono abbassati gli aerei piccolini per bombardare le persone che c'erano. Hanno bombardato sì la carovana di macchine, ma hanno bombardato anche la casa. La casa è andata quasi distrutta perché ci sono state due bombe molto forti. Dopo vi lascio vedere dove. Una ha divelto completamente una fontanone che c'era e l'altra è andata proprio dove c'è quella casetta là, quel bel vedere, e ha distrutto la scala che sale. E però dopo abbiamo dovuto metterla a posto, ci sono stati dei personaggi che sono andati ad abitare qui, vivevano in qualche modo anche i quellini di sopra, insomma un disastro. I danni sono stati forti, perché in quel momento, oltre alle bombe grosse, c'erano anche dei picchiatelli, chiamavano i picchiatelli, che erano dei aerei molto piccoli che gettavano bombe quasi di giorno o di notte e avevano fatto tantissimi buchi nella parte esterna della casa che abbiamo dovuto mettere a posto. E oltre a tutto è successo anche se sono rotte delle canne, scesa l'acqua, ha fatto un macello, insomma. Vabbè. Dopodiché l'abbiamo rimessa a posto e sono venuta ad abitare io nel 56 e sono vissuta qui. Mia mamma è morta e mia sorella pure, praticamente sono io e due miei nipoti che non vivono neanche qua. Basta, per la casa. Per il giardino non era così, ecco. Il giardino non era così come lo vedete adesso. Era tutto diverso. Allora, intanto c'erano molte statue, anche di piccoli animali che erano appoggiati su quelle colonne. Sono state distrutte completamente dalla guerra. Poi c'erano dei dipinti in fondo alla campagna dove avete visto, entrando, che c'è quel cancello di ferro con quella ringhiera. Ecco, perché il contadino entra anche da lì, adesso. Ecco, ci erano dei dipinti sotto, fatti sempre a base di animali. Probabilmente nella campagna, allora, giardino, campagna, era adibita soprattutto a caccia. Venivano a caccia. Allora, avevano anche favorito questa, probabilmente la bellezza che avevano fatto intorno, avevano fatto questi piccoli animali da appoggiare sulle colonne. E il giardino non era così, era più ristretto e c'era molta vigna, la vigna che arrivava fino su qua, quasi al confine. E dopo è stato tutto eliminato, adesso la vigna è rimasta in fondo, solo il pezzo in fondo. E qui c'è un po' di prato, un po' di giardino, cerchiamo di tenere gli alberi. Per esempio, ho questa magnolia a 50 anni, questa qui che è fuori, il deodara che è in fondo alla campagna ha più di un secolo, perché sono stati piantati quando i miei nonni sono venuti ad abitare qui. Le altre piante sono state pian piano e piantate e cerchiamo di mantenere il più possibile il verde per dare l'ossigeno a chi abita nei dintorni. Ecco, io cerco di mettere rose, di fare un po' di prato, quello che si può fare, e la casa l'abbiamo messa sotto le belle arti e perciò abbiamo dei vincoli. Non possiamo costruire degli abbellimenti se non abbiamo il permesso di Trento. Abbiamo dovuto far così perché altrimenti qui ci mettevano delle costruzioni che non andavano assolutamente. Abbellire il paesaggio. Lei è particolarmente legata a una stanza di questa casa? Una stanza sì. Allora, è la stanza dove ha vissuto sempre mia mamma. E dove aveva la sua stanza con i mobili recepiti da lei, messi come le voleva lei. Io dopo che è mancata mia mamma, ci sono ritornata dentro in questa stanza e ci vivo lì, con gli stessi mobili messi nello stesso modo come erano prima. E nel letto che era di mia mamma. Ho cambiato il materasso, l'unica cosa.